coloro che inciampano insieme devono sapere rialzarsi insieme, anche se hanno la terribile fretta di chi nasconde una ferita ancora aperta, dovendo togliersi il trucco dal viso per riscoprire di avere il sorriso da riciclare per gente per bene, da condividere in mezzo alle iene. E mi sembrava che i tuoi sbalzi d'umore avessero occhi per vedere la mia reazione al dolore, la mia repressa attitudine alla vita. È un quaderno scritto a matita e cancello le parole. E avevi voglia di farti bella e dare indizi su come inventarsi, perché ogni bruco diventa farfalla. Bisogna solo sapere accettarsi. E ora cerco il profumo dell'alba, e ora che cerco fiori per strada inseguendo la calma, io per non piangere farò i cruciverba, io per non piangere avrò più cura della mia stessa merda. Ed ora guardami ed urlami in faccia, e prima che tutto finisca, prima che io taccia, sai che coloro che inciampano insieme trovano un modo per rialzarsi insieme. Bruci in fretta la mia capacità di sorridere.